giorno vedi le ragnatele, ricamate d'amore e di morale, dove solite eterne regole si nascondevano tra mille trame. Mentre vagavo dentro un bosco blu, sentì una voce dietro, c'era un uomo che mi chiamano tutti il pazzo a corte, disse porgendomi la mano. Se ti è stata avversa la sorte, vieni e ti spiegherò il mio piano. Quando un coro si alzerà, un nuovo inizio, un'energia, questa forza siete voi, non dovete dimenticarlo mai. Con un grido al cielo noi, unico sforzo, unica via, finché giustizia sarà, non smetteremo di lottare mai. C'è un re malvagio che ci opprime, sai, non hai capito, non cerchiamo eroi, il popolo è compatto, poi vedrai, volevo chiederti di unirti a noi. Di persone, di paesi differenti, uniti e con un ideale, allora come on baby. Davanti a tutta quella gente, Rebor si deve preoccupare, se non han più da perdere niente, ma un mondo si da guadagnare.